Ogni lavoratore che si rispetti, a settembre, appena tornato dalle vacanze estive, prende in mano il calendario e pianifica i propri ponti fino a luglio dell'anno successivo. E visto che quest'anno il 25 aprile si sovrappone al lunedì dell'angelo e che il 1° maggio cade di domenica, tutti quanti hanno puntato forte su questo weekend lungo, quello dei morti. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:09, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Perché questi fine settimana lunghi, o ponti, che sia, questo non è un ponte, non è ancora un ponte, o mini vacanze, dividono la popolazione in due, fondamentalmente. Ti fanno anche un po' capire chi, raccontano un po' di te stesso. Cioè ti dividono in quelli che si sono preparati per la mini vacanza, e quindi da giorni, da mesi forse la pianificano, e quelli che invece dalla vacanza vengono colti di sorpresa. Io sono tra questi secondi, cioè tra quelli che vengono colti di sorpresa. È per questo che, visto che mi sono svegliato questa mattina e ho scoperto che forse, in realtà poi lunedì, alla fine noi lunedì siamo qui, no Tiziano? Noi siamo belli che qui, quindi non è nemmeno un weekend lungo, però questo mini weekend, mi piace pensare come se fosse un weekend lungo, non me lo sono pianificato, io ho bisogno di sapere da voi, che avete invece organizzato delle fiere, dei concerti, delle sagre, sapete che ci sono in giro dei festival, delle mostre, se magari lavorate in una proloco di un paese e state organizzando un grande weekend in cui si mangia solo salsiccia, 800 24 00 24, oppure 349 238 6666 per aiutare me, ma soprattutto tutti quelli che non sanno che cosa fare e ormai manca poco perché cominci questo weekend. Ma prima di farlo però io voglio dare una mano anche a quelli che invece si sono organizzati e che non sanno ancora che cosa gli aspetta. Ecco perché ho chiesto di venire in studio qui con me Simone Spezia. Buongiorno Simone. Buongiorno Matteo. Allora Simone, diamo qualche nuova. Innanzitutto io vorrei già che tu mi dicessi: ed è emergenza weekend lungo. Vuoi che te lo dica? Sì, vorrei che tu me lo dicessi. È emergenza weekend benissimo, lungo. Benissimo, è emergenza weekend lungo. Quanti numeri abbiamo sulle strade? Questo a prescindere. Benissimo, benissimo. Ci saranno quindi milioni di persone sulle strade. Sì, sì, allora a me non pare, a dire la verità. Allora, per il momento no, sono anche le 4 del pomeriggio, quindi ok, insomma, però già un po' di emergenza lanciamo. Aspettiamo, Simone. Allora vabbè, la prima emergenza che si troveranno ad affrontare è il tempo, perché pare che in questo fine benissimo settimana sia... E allora è emergenza maltempo. Emergenza maltempo, pessimo tempo. Poi sul fronte dei viaggi, ma dappertutto, in tutta la penisola, beh, più o meno, più o meno, dimmi di sì. Più o meno, sì, più o meno, maltempo in tutta la penisola. Poi, allora, sul fronte di chi viaggerà ci sono i dati, al momento disponiamo dei dati di Federalberghi, che ci dicono che saranno circa 5,5 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il Ponte di Ogni Santi. 5,5 milioni direi che ce n'è, insomma. Sì, rispetto... una discreta cifra. Naturalmente sono 5,5 milioni di italiani, non sono 5,5 milioni di macchine. Quindi facendo che sono tipo 3 per macchina? Sì, più o meno. Saranno insomma 2 milioni. Ma ci sarà anche qualcuno che viaggia da solo. Ma insomma, scusami, poi... Simone, aspetta, però io volevo vendere questo come il primo grande esodo della stagione. Sì, vabbè, ma questi sono solamente i dati di Federalberghi. Poi no, okay. Autostrade non li fornisce più perché li dà più o meno a consuntivo. Cioè dopo? Dopo, è certo, okay, quando hanno un quadro più, ho capito, più, ma che più senso, preciso. È come quando fai la riunione di condominio, ti dicono per adesso è così, poi arriva il consulto. Però ti dicono comunque stai attento perché questo fine settimana sarà... C'è sarà casino, okay. Quindi 5,5 milioni secondo Federalberghi. Abbiamo un dato da Fiumicino che parla di 350.000 passeggeri in transito nel fine settimana. Cioè anche in arrivo o in partenza? Quattro andate e ritorni naturalmente, okay, insomma. Okay. Poi abbiamo Coldiretti e Confagricoltura che ci forniscono due cifre diverse sugli arrivi negli agriturismi. Quindi è emergenza agriturismo, emergenza anche se agriturismo. Mi permetti, potrebbe essere che se cercate un agriturismo è già troppo tardi. Ok, 32% in più secondo Coldiretti le prenotazioni rispetto all'anno scorso. Rispetto all'anno scorso, allo stesso periodo. Esattamente, però non danno cifre perché assolute. Perché non c'era il weekend lungo l'anno periodo, era ponte. Lo sai, non me lo ricordo questo. Va comunque, bene, andiamo avanti. Comunque, Confagricoltura invece stima un più 70%. C'è da dire che hanno due reti di agriturismi diversi, però più insomma, 70%. Più 70% rispetto all'anno scorso. Ma perché scusami, Confagricoltura e l'altra che hai detto sono due robe diverse, sono due cose diverse e gestiscono quindi agriturismi diversi. Non gestiscono, hanno come associati degli agriturismi diversi. Okay. Delle reti di agriturismo. Beh, però 70% in più è ufficialmente emergenza agriturismo. Tantissimo. Allora, possiamo dire che è emergenza Roma, perché cioè? secondo Expedia sarà Roma la quinta tra le mete preferite dagli italiani rispetto a tutto il pianeta. Quindi, cioè, allora, gli italiani che partono per questo fine settimana vanno in alcuni posti. Vanno in alcuni posti. Parigi su tutti, e poi Roma è quinta. Scusa, intanto mi arriva un messaggio, una telefonata, giusto? No, è una notizia. A Roma il traffico è già tutto bloccato. Ah, è un ascoltatore, Carlo da Roma, che ci dice che a Roma il traffico... Ma dove? A Roma? Tutta Roma? Immagino in uscita. Tutta Roma, immaginiamo in uscita. Immaginiamo. La fanno, come dire, tutta Roma, come dire, figura di Roma è sempre bloccata, che non mi pare abbia molto senso. Poi però abbiamo anche dei dati, mi dicevi prima Simone, che sono quelli che... E mi pare emergenza cimiteri. Emergenza cimiteri. Allora, secondo Telefono Blu, allora io naturalmente qua non giurerei sull'affidabilità dell'associazione. Cos'è Telefono Blu? Telefono Blu è un'associazione di consumatori. Che si occupa di cimiteri. Anche tra consumatori in genere. Consumatori in genere, cioè non consumatori defunti, ma consumatori vivi. E 18 milioni di italiani andranno a visitare i loro cari in un cimitero. 18? 18 milioni di italiani. Che si muoveranno con... In automobile, emergenza parcheggi cimiteri. Ok. 12 milioni di famiglie interessate all'evento. E poi dicono da Telefono Blu 300 milioni di euro, una media di quasi 25 euro per famiglia, soldi spesi per i fiori e tutti gli accessori. Che non Quali sono gli accessori? Appunto, non sappiamo esattamente cosa. Ci sono accessori per la festa dei morti. Comunque, a parte che mi scrivono già che è il ponte è la festa dei santi e non dei morti. Sì, però ci sono anche i morti. L'uno è i morti e il due è i santi. Sì, mi sembra proprio di sì. È il contrario. O viceversa. È così, l'uno è il santo e i due è i morti. Appunto. Vabbè, insomma, abbiamo qualche altro dato, Simone? Se vuoi lanciarmi qualche altra emergenza, se no, se abbiamo finito. Emergenza Halloween, se vuoi? Sì, ultima emergenza Halloween. Sarà festa per 10 milioni di italiani, secondo il Codacons. Benissimo. Quindi, scusa, di conseguenza potrebbe essere emergenza alcolici, ad esempio. Ah, sì. Emergenza alcolici, perché da un'emergenza e zucche. A cascata ci sono sempre le altre. Io ringrazio Simone Spezia, però ringrazio anche molto quelli che già mi stanno scrivendo al 349-238-6666 e che stanno chiamando all'800-24-0024 per darmi un po' di consigli. Perché Simone, peraltro, non so se tu ti sei già organizzato per questo lungo fine settimana, però mi dicono, Ferruccio, a Roma c'è la festa del cinema, Lorenzo, mostra, Salvador Dalì a Milano dopo 50 anni. Non lui, chiaramente, i suoi quadri. Alessia, si potrebbe sempre provare con Van Gogh, è tornato a Roma dopo 20 anni. Vale la stessa cosa per Dalì. Roberta, da noi c'è la festa d'autunno, arrivano i tedeschi con cibo, birra a volontà. 800-24-0024, 349-238 per gli 666 per gli appuntamenti. 666 no, 6666 per gli appuntamenti del fine settimana lungo. A me andrà più o meno così. Perché poi lavorare in radio non è tanto diverso da lavorare in un ufficio qualsiasi, no? Cioè, a un certo orario devi essere lì e prima di una certa ora non puoi uscire. Tutti i giorni. E poi c'è qualcuno a cui devi rendere conto di quello che fai. Ci sono tavoli, sedie con le rotelle, computer e telefoni che squillano. C'è un badge per entrare e c'è una chiavetta per prendere il caffè. Ci sono le gazzette dello sport e ci sono dei colleghi. E non è che puoi stare a casa un giorno se non hai voglia o se non stai bene. Insomma, devi almeno avere una giustificazione molto significativa. Le donne qui in ufficio parlano di Tutti pazzi per amore o di X Factor e gli uomini parlano di calcio o di X Factor. Mi pare di capire sia elemento unificante dei generi maschile e femminile per qualsiasi altra categoria e più di qualsiasi altra cosa. Insomma, anche il mio è un ufficio, nella buona e nella cattiva sorte. Però ci sono dei giorni in cui me ne accorgo di più. Ad esempio, in prossimità dei ponti. Ieri, in mensa, per esempio, era un fiorire di biglietti di aereo stampati di nascosto e di facce sorridenti. Che, ok, c'è la crisi e la gente non compra. Però com'è come non è, chi non ha figli, ma anche chi ce li ha, appena può mettere in fila 2 o 3 giorni per andarsene dalla propria prigione privata, lo fa e scappa altrove. E questo succede dappertutto, sia chiaro, mica solo per chi lavora in ufficio, solo che lì, anzi, qui, lo si nota di più. E poi, siccome si è un po' tutti legati dall'essere al soldo dello stesso capo, si condividono con gioia tutte queste piccole fughe. Allora, l'abbiamo appena detto, no? Lo sapete tutti, c'è un weekend lungo in arrivo, che non è tecnicamente un ponte, perché quello ci sarà a dicembre, che poi significa prendersi un giorno di ferie per collegare la festa con il weekend più vicino e stare via dal lavoro il più tempo possibile. E ogni impiegato che si rispetti, a settembre, appena tornato dalle vacanze estive, prende in mano il calendario e pianifica i propri ponti fino a luglio dell'anno successivo. Chi nega di farlo, mente, sappiatelo. Lo faccio pure io. È passato il periodo della mia vita in cui queste cose non le notavo nemmeno. E quindi anche io so perfettamente che quest'anno il 25 aprile si sovrappone al lunedì dell'angelo, il 1° maggio cade di domenica, ma soprattutto Natale e Santo Stefano, l'ultimo dell'anno e Capodanno, sono sabato e domenica. Una tragedia. È per questo che tantissimi intorno a me hanno puntato fortissimo su questo weekend lungo dei morti e sul ponte dell'Immacolata di dicembre. E giù viaggi nelle capitali europee, aperture di seconde case in montagna, questo per i più fortunati, perché per gli altri ci sono solo lunghe code all'IKEA o pranzi e cene a casa di genitori e di suoceri. E poi tanto Alka-Seltzer. Il ponte è una nuova forma di schiavitù, come lo sono le vacanze estive, peraltro. E in questi giorni mi è molto chiaro. Ogni volta che arrivano dei giorni di vacanza, a me viene da pensare al lavoro. Al suo significato, a ciò che è il lavoro e ciò che è il mio di lavoro. Il mio lavoro è questo qua, parlare alla radio. Mi piace ovviamente, è un bel lavoro, me lo sono scelto. Anzi, credo che sia uno dei lavori più belli che ci siano. Uno di quei lavori per cui alla domanda «Che lavoro fai?» le persone dopo la mia risposta mi richiedono «Sì, ma di lavoro». Che poi ormai a pensarci, il 70% dei mestieri sono mestieri di concetto. Lavori per cui la massima manualità necessaria è quella utile a battere sui tasti del computer. Comunque, al di là di questo è innegabile che ci siano lavori senza i quali non si potrebbe vivere. O almeno si vivrebbe peggio. Tipo il muratore, l'elettricista, il macellaio, tutti lavori manuali senza i quali ci godremmo molto meno la vita. Anzi, no, direi che proprio non ce la godremmo, ormai sono diventati indispensabili. Ma, ad esempio, se non ci fossero i conduttori radiofonici o quelli televisivi, se non ci fossero i musicisti, i pensatori, gli scrittori, ma anche i preti, i filosofi, la vita della gente come sarebbe? Beh, se non ci fosse qualcuno che non fa nulla di pratico, ma che semplicemente ti racconta una storia, su uno schermo, in un libro, in un'aula, in una chiesa, boh, forse la vita sarebbe meno bella. E forse allora è che non esistono lavori utili e lavori inutili. Esistono solo lavori che fanno e lavori che immaginano. Comunque sì, al di là di tutto questo, tutti quanti hanno bisogno di un lavoro. Anche solo per avere qualcosa da fare e per avere un posto in cui stare. Per alzarsi dal proprio posto, di solito per chi lavora in ufficio, ha bisogno in genere di un permesso scritto. Una mail, per esempio. Altrimenti anche solo uscire dall'edificio per fare due passi può significare un appunto, un richiamo. Nei casi peggiori può essere causa di licenziamento addirittura. Questo è un tema delicato, lo so, ma è anche ciò che succede tutti i giorni a tante persone. Vivere la maggior parte della propria vita in una situazione di reclusione volontaria. E quello che faccio io di questi tempi è smettere di chiudere gli occhi su quello che accade intorno a me e dire quello che vedo e quello che penso. E quindi cerco semplicemente di dare i nomi alle cose. Insomma, a mensa oggi mi sembrava di vedere la gente che organizzava una fuga. Tutti elencavano nomi di località, orari di partenza e di arrivo, quantità di traffico previsto e spesa globale. Ed erano tutti molto precisi. Io, invece, non ho organizzato nulla. Paola, segretaria di redazione, va a Parigi in un piccolo hotel sulla Rive Gauche, dove era stata anni fa d'estate e che si ricorda molto romantico. Ettore è un tecnico, va a Cervinia, a casa dei suoceri, sperando che nevichi, ma non durante il tragitto. Giovanni, fattorino, va a Salice Terme con la sua fidanzata appassionata di massaggi e di benessere. Paolo, assistente ai programmi, va a Roma a trovare la promessa sposa che non si muove mai da lì perché quella è la città più bella del mondo e lui alla fine dice che c'ha pure ragione. Chiara, receptionist, va a Ginevra a trovare l'amico di infanzia cervello in fuga che è andato a lavorare lì e vive lì. Loredana, receptionist, anche lei va a Riccione perché ci sono luoghi che non vanno mai fuori stagione. Luca, caposervizio, va a Sestri Levante per cercare di capire per quale motivo ha preso una casa cara come l'oro in un posto che d'estate è troppo pieno e d'inverno è troppo triste. Claudia, ufficio stampa, va a Berlino, dove c'era una grande offerta in un hotel a 5 stelle appena aperto e che vuole farsi promozione. Oreste, assistente ai programmi, va a Torino per 2 giorni, ma torna ogni sera a dormire a casa perché non ha soldi abbastanza per l'albergo. Giovanni, assistente ai programmi. Trieste, dove vuole parlare? I don't wanna stay. I got too much in here going on. It's driving me insane. I gotta go. Would you even know? It all comes back to me. It all comes back to me. Allora, l'uno sono i santi, il due sono i morti, ok? Detto, fatto. 800240024 349-238-6666. Stanno arrivando un sacco di appuntamenti, per lo più sagre. Però a me piacerebbe avere qualcuno che è veramente tipo di una Proloco di un paese. Comunque, Andrea è uno di quelli. Vinidivinaioli.it. A Fornovo, fiera dei vini naturali, domenica e lunedì. Ma cosa vuol dire vini naturali? Esistono vini sintetici? Probabilmente sì. Roberto invece a Lucca, Lucca Comics, credo che sia una fiera del fumetto che si tiene a Lucca. Margherita, Capodanno celtico al Castello Sforzesco di Milano. Idromele a Fiumi. Cos'è l'idromele? Tipo il sidro probabilmente. Sì, credo non sia analcolico. Lorella, la tradizionale fiera dei santi che ogni 2-3 novembre dal 1256 riempie il centro di Santo Stefano di Cadore in provincia di Belluno. 800240024 349-238-6666. Sia che ci stiate andando, sia che sappiate che ci sono sagre, feste, mostre, concerti, festival, e sia che li stiate organizzando, che li abbiate organizzati per questo fine settimana lungo, qualsiasi avvenimento che ci sia. Per esempio, Diego mi scrive: November Pork a Cremona. Ora, io vedo November Pork e mi domando cosa sarà, e vado a cercare. Cremona, festa del maiale, davanti alle piscine comunali. Magari qualcuno non se l'ha dimenticato. Dal 29 al 1 di novembre. Ricco il programma. Venerdì alle 22 suonerà il gruppo Killing Kenny. Sabato alle 21 Pit Pot in concerto. Domenica alle 15 Gastronomica di Freccette. E sempre domenica alle 21 Halloween Party con DJ Portale e una madrina eccezionale, Eleonora Busi. Oh, ne conoscessi uno. Sarò lunedì 1 novembre dalle 11 alle 18 fagiolini gratis, alle 15 Gastronomica di Briscola. Ma questo ho capito, deve essere un torneo che quando vinci magni, perché Gastronomica di Briscola e Gastronomica di Freccette, il tutto nella tensa struttura riscaldata con cucina dove degustare i piatti tipici del maiale, mongolfiera e giochi per bambini. 800240024 349-238-6666. Consigli per il fine settimana lungo. Dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. E nella foto invece siamo in un deposito di tram. E in primo piano c'è il muso di un tram. È un tram milanese, quei tram vecchi che ormai caratterizzano Milano, no? Per cui dopo il Duomo, il tram di Milano, quello arancione, è il simbolo della città. Ormai qualsiasi film debba vendersi Milano ci mette dentro il tram. Di solito è arancione. Questo invece è verde scuro, direi, con delle rifiniture dorate. È tenuto benissimo e in alto ha scritto ATM, no, in alto ha scritto Atmosfera, che sta per ATM, che è l'azienda dei trasporti milanese, più Osfera, quindi messi insieme. Insomma, è un tram ristorante. È un tram ristorante che vi porta in giro per la città e vi serve da mangiare, credo sia soprattutto per serate romantiche. Alla guida del tram, che è fermo nel deposito, c'è il protagonista della foto che tiene le mani sul volante, cos'è, il freno, e la cosa che gestisce insomma il movimento del tram, con la sua bella maglietta d'ordinanza e un bel sorriso stampato sulla faccia. Sono Davide Nazzari, ho 32 anni, ho riparato per voi questa atmosfera molto particolare, io sono qui. Quindi lui non è un autista di tram, lui li ripara proprio. Beh, complimenti, perché il tram è magnifico, andatevelo a vedere, sempre sulla pagina di Io Sono Qui, sul sito di Radio 24, radio24.it. Se volete continuare a mandarmeli, già continuate a farlo, però ho creato un'altra cartella. Matteo Caccia, Io Sono Qui, il profilo di Facebook per mandarvi le vostre foto, le foto dove siete voi, dove vi trovate, dove vorreste essere. Allora, un po' di risposte a che cosa sono i vini naturali. I vini naturali sono vini biologici o biodinamici. Franco, ovviamente, mi viene da chiedere che cos'è il vino biodinamico, perché posso immaginare cos'è quello biologico, ma non quello biodinamico. E poi, sempre in fatto di alcolici, idromele, nettari degli dei per i greci, bevanda a base di miele piuttosto alcolica, in uso nelle popolazioni celtiche del Medioevo. Si può fare anche in casa. Questo lo immaginavo. Ma sta festa celtica sarà una cosa col fiore delle Alpi, immagino. Poi, allora, appuntamenti per le fine settimana. Sagra del Borlengo a Missano. Quest'anno sfida coi ciacci di Fellicarolo. Avresti capito una cosa che ho letto. Sfida coi ciacci di Fellicarolo, 31 ottobre, 1 novembre. Non ti sei firmato, chiamaci però, dici che cos'è. 800 24 00 24. Noi lunedì saremo in 10 a staccare le olive, poi cena con grigliata, vin brulé e musica. Marco, oggi hai colpito nel segno. Niente, c'è questo che pensa che mi chiami Marco. Marco, oggi hai colpito nel segno. Anche io non vado via, ma torno dalla mia ragazza per aiutarla a trovarsi la sua prigione, cioè un lavoro che le permetta di restare in Italia con me, perché lei è domenicana. Per qualcuno avere una prigione può significare avere il futuro. Che sogno, Andrea. Grande Andrea. Matteo, comunque. Per la prossima volta, Matteo. Oggi mi è arrivato un messaggio, però, che era insieme a quelli che mi dicevano gli appuntamenti per il fine settimana. Il messaggio era questo. Io vado in crociera. Vi ricordo che è il 29 di ottobre. Io vado in crociera con i miei amici. Siamo in 6. Partiamo da Venezia alle 4. Andiamo a Dubrovnik. 3 giorni e 2 notti. Punto. Spettacolo. Punto esclamativo. Non potevo non chiamarlo. Pronto, Carlo? Ciao Matteo. Ciao, come dove stai? Bene, tu come stai? Benissimo, benissimo. Dimmi che cosa hai intorno in questo momento. Dove allora, sei? Siamo sul ponte 14, quello più alto. Sì. Siamo tutti gli amici. Stiamo bevendo una birra e stiamo passando dal canale della Giudecca, quello a fianco a Piazza San Marco. Quindi la nave è partita? Sì, in questo momento. Senti, infatti, ma spero di non, che non fischi la sirena, insomma. No, speriamo che fischi la sirena, al contrario. Senti, Carlo, allora, da quanto te lo sei organizzato questo viaggio, innanzitutto? Allora, io lavoro in agenzia viaggi, quindi vedo tutte le opportunità che ci sono e ho deciso di proporlo ai miei amici. Sì? E hanno accettato in 5. Adesso siamo in 3 cabine differenti tutti insieme, cioè nel senso, quindi siete in 3 doppie fondamentalmente. Esatto. Senti, dimmi la destinazione della crociera. Allora, la destinazione è Dalmazia, Dubrovnik. Sì. È una mini crociera di 3 giorni e 2 notti in occasione di questo ponte. E è quella MSC. E quanto è perfetto, così abbiamo detto tutto. E quanto viene via una mini crociera per il ponte? Non ho capito, scusa. Con quanto viene via? Non per te che sei di un'agenzia. Allora, se vieni in agenzia da me è 220 euro. Tutto compreso? Esatto, sì. E poi sopra ovviamente tasse incluse. E sopra ovviamente è all inclusive, per cui pranzo. No, le crociere non sono mai all inclusive, sono pensione completa. E che differenza c'è, scusami, caro? All inclusive è praticamente hai l'open bar, quindi se vuoi per assurdo 18 Coca-Cola, 18 birre sono gratis. Ok. E fuori dai pasti, tutto quello che prendi fuori dai pasti lo paghi. Però colazione, pranzo e cena ce li hai. Esatto. Senti, dimmi invece, parliamo di Dubrovnik. Gli amici ti salutano tutti, eh? Salutami. Dimmi i nomi. Allora, Veronica, Marta, Matteo, Costantino e Tiziana. Non se le ricordo neanche. Ma quindi, scusami, ma tu sei in coppia con qualcuno? No, siamo tutti amici. Siete tutti amici? Sì. Però c'è una cabina spaiata, o sbaglio? No, siamo 3 donne e 3 maschi. Appunto, questo vuol dire che se ci sono 3 doppie, ce n'è una in cui c'è un maschio e una femmina. Tutte e 3, sono un maschio e una femmina. Ah, okay. Ok. Scusami, Carlo, scemo io a non pensarci prima, giustamente. Quindi, senti, parliamo di Dubrovnik invece. Esatto, bellissima, città bellissima, una delle città più belle del mondo, dicono. Infatti andiamo a vederla proprio per vedere se è vero. Ho capito, tu vai a vedere, ma cosa si fa a Dubrovnik? Dubrovnik è una città veneziana, è una città storica. Tanti anni fa era veneziana. No, una città di stile veneziano, intendo. Ok. Chiaramente. Niente, si va lì, si mangia pesce, si... Certo, insomma, c'avevi voglia di fare 3 giorni in crociera, Carlo. Mi sembra la giustificazione migliore. Siamo poche ore, siamo 7-8 ore. Ma tanto che domani. Ti frega te di Dubrovnik, c'è la cabina doppia. Appunto. Senti, Carlo, facciamo così. Noi ci sentiamo... Voi tornate quando? Lunedì o martedì? Domenica sera. Sì. Allora noi lunedì ci sentiamo, sì, per sapere com'è andata. Benone, va bene. Salutami tutti quanti, Tiziana, Marco. Ciao, ciao Carlo, ciao. Fate buon viaggio. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. 800 24 00 24 349 238 6666. E io, che, sai il conto che fai quando siamo tre maschi e tre femmine, due in una doppia, due, poi qualcuno. Oh ragazzi, mi spiace, ma c'è qualcuno che deve stare spaiato. Spiaceva anche a lui. Andiamo invece a Roma da Manuela. Pronto, ciao. Manuela? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Allora, tu mi hai scritto, io ho spostato il weekend lungo, parto domenica e torno mercoledì. Sì. Perché a Roma le scuole sono chiuse anche il 2. Sì, a Roma e credo anche in qualche altra città sono chiuse anche il 2. E tu vai, bambini... vai in Umbria alla Fiera dei Morti? La Fiera dei Morti, sì. Che è cos'è? Un mercato enorme. Eh? È un mercato che c'è tutti gli anni durante il periodo dei morti, appunto. Mm? E quest'anno c'è dal 1 al 6 novembre ed è un mercato enorme dove si trova di tutto. Ma tutto quello che cerchi lo puoi trovare. Ma però fammi un esempio, c'è chiaramente non roba da mangiare, ma roba da... No, roba da mangiare, vestiti, antiquariato, tutte quelle cosine che vendono alle televendite in televisione. Al mercato? Qualsiasi cosa, sì. E tu cosa hai in mente di comprare, Manuela, scusami? Ma io faccio la scorta di vestiti normalmente per tutto l'inverno. Ma per te o per i bambini? Per me. Ma senti, per i bambini si trova poco in giro. Per senti, me ma in media quanto costa di meno la roba alla Fiera dei Morti di Perugia? Un terzo. Un terzo in meno? Sì. Cioè, scusami, non un terzo in meno, costa un terzo della costa spesa normale? Costa un terzo di quanto tu la puoi trovare in giro, sì. Benissimo, diciamo anche a Perugia dove? Sai dircelo esattamente così? A Ferro di Cavallo, vicino che allo è una stadio. Che è una zona di Perugia. Molto grande, sì. C'è un parcheggio molto grande dove fanno il mercato anche il resto dell'anno, ma non così grande. Va bene, grazie mille Manuela. Tutti alla Fiera dei Morti, alla Fiera dei Morti di Perugia. Ciao e buona, sì, e ciao. Buon ponte lungo. Ciao, ciao, ciao. Grazie, ponte. Ciao. Weekend. Stiamo a Milano, andiamo da Licia, che è della Proloco. Ciao. Ciao, Licia. Oh, mi fa piacere che sei riuscito a inserirmi, perché voglio che fai la massima pubblicità per il nostro... No, aspetta, aspetta Alicia, non devi dire così perché altrimenti sembra veramente una marchetta. Tu devi semplicemente dire: no, guarda, facciamo questa cosa con un'aria anche un po' leggera, capito? Ah, bene. No, come se fossi disinteressata. Abbiamo organizzato una mostra di pittura, una retrospettiva su un artista locale proprio di San Martino in Strada. Alice, aspetta, però me la devi indorare un po' meglio, perché detta così sembra già una noia mortale, non ci viene nessuno. È una cosa bellissima, perché c'è anche una cosa bellissima, perché c'è anche un annullo filatelico, abbiamo coinvolto anche le poste, abbiamo ideato un timbro. Per chi non lo sapesse, che cos'è l'annullo filatelico? Allora, praticamente l'annullo filatelico ti organizzi con le poste, prendi un timbro, sai i timbri che mettono sui francobolli? No, quando tu mandi via una cartolina, sul francobollo mettono il timbro. Sì. In questa occasione invece abbiamo studiato, preparato un timbro dedicato all'artista, quindi riporta il... Ho capito, è chiaro. Fatto stampare l'annullo filatelico. Licia, guarda, facciamo così, dammi solo l'appuntamento per allora, quando, così salutiamo. Sì, partiamo il 30 alle 5 con l'apertura della mostra e finiamo domenica sera alle 7. Ci sarà la gente così. Licia, grazie mille, buon fine settimana. Andiamo all'ultima telefonata al volo, andiamo da Gino a Parma. Pronto Gino? Sì, pronto. Ciao Gino, mi dicono che ho 15 secondi, me lo dicono così al volo dalla regia. Tu vai con i bambini a... Dove? Mirabilandia. Ah, la festa di Halloween. C'è una festa di Halloween a Mirabilandia? Sì, sì. Quindi domenica sera fanno i fuochi d'artificio e festa di Halloween e andiamo lì. Ma quindi deve andare vestito? No, io no. Ma scusami, tu vivi a Parma o sei di Parma? Perché... Sì, sono di Parma. Perché non hai l'accento di Parma, però? Lo so, non ce l'ho la R di Parma, lo so. Ok. Me l'hanno già detto. Senti, ma quanto costa andare a Mirabilandia? Un biglietto? Sui 29 euro l'ingresso per gli adulti, i bambini fino a 7 anni sono gratis e quindi non pago niente, non pago. Gino, grazie mille, fai un buon weekend. Grazie anche a te. Ciao, alla prossima. Ciao. Gino apparteneva alla categoria di quelli che ripetevano sempre l'ultima parola alla fine della frase. È per questo che lo ringrazio. Ringrazio anche però Fabio Rudi Candadori, ringrazio Vittoria Mussini che oggi è vestita per andare a teatro, Tiziano Bonini e soprattutto Stefano D'Andrea. Noi ci sentiamo lunedì, perché domani non lo so, ma oggi io sono qui e voi dove siete?